GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alle 12:16 minuti, ancora un cordiale buongiorno da Livia Liberatore, Armando Mucchino. In questa edizione del GR vi parleremo dei tempi lunghi per il rilascio dei passaporti a Udine e Pordenone, poi primi bilanci per la stagione turistica Lignano-Sabbiadoro, nostra intervista alla giornalista RAI Lucia Goracci, premiata a Palma Nova al Festival della Conoscenza. Per lo sport, l'Udinese oggi in campo al Friuli contro il Genoa e la sconfitta di ieri sera per la Gesteco Basket. Tornano ad allungarsi oltre misura i tempi per il rilascio dei passaporti in alcune questure della regione, dove la situazione si conferma diversificata. A Udine il primo appuntamento per avere il passaporto tra 6 mesi a marzo 2024, si legge nell'agenda online della questura, dove però al momento non appare alcuna data disponibile. L'attesa si allunga da 3 a 6 mesi anche a Pordenone, lo conferma il questore Carocci. Gli uffici servono tutta l'ex provincia, spiega il questore, che esclude per il momento nuove aperture straordinarie per i passaporti, ma assicura che in caso di urgenze, anche per motivi di turismo, il rilascio entro una settimana al massimo è sempre garantito. Lo stesso assicurano le altre questure, più Suose, Trieste e Gorizia, dove gli appuntamenti si ottengono nel giro di pochi giorni e i passaporti vengono rilasciati entro 2 settimane. Nel capoluogo esontino, fa sapere il questore Gropuzzo, ci si può anche presentare direttamente allo sportello per le urgenze con tutta la documentazione, senza prenotazione online, così anche a Udine, che sconta però il fatto di essere la più popolosa, sottolinea il questore D'Agostino, e dove il personale, addetto all'ufficio passaporti, aggiunge, è stato incrementato in ragione delle accresciute esigenze il rilascio a 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. Che i tempi a Udine e Pordenone siano tornati a dilatarsi, come durante le vacanze estive, lo segnala anche il referente regionale della Federazione Italiana Agenzie Viaggi, Campaiola. Le associazioni di categoria rimarcano come il problema, che è un mal comune italiano, costi al settore perdite ingenti. Per ovviare ci si può anche prenotare nelle questure, che garantiscono tempi più celeri, ma serve prima il nulla osta di quella del luogo di residenza. A pesare, segnalano i questori, non è solo la carenza di personale, sono anche i sempre più numerosi cittadini che si prenotano con molto anticipo senza avere urgenza o necessità del passaporto. E alle questure di Udine e Pordenone c'è pure il paradosso degli oltre 200 passaporti già pronti da mesi che giacciono dimenticati e che gli stessi questori invitano a ritirare. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Il bel tempo di questi giorni continua a far affluire turisti a Lignano, dove si tracciano i primi bilanci della stagione estiva. Mentre gli ombrelloni sono ancora aperti in spiaggia, a Lignano Sabbiadoro si traccia il primo bilancio dell'estate. Al 31 agosto incassati quasi 1.800.000 euro dall'imposta di soggiorno, tanto quanto nel 2022, appena 36.000 euro in meno, e fanno ben sperare i dati di settembre, visto il meteo favorevole. L'imposta si paga solamente per i primi 10 giorni di permanenza, impossibile quindi stabilire una prima lettura se si è incassato da 3 turisti che si sono fermati 3-4 giorni l'uno o da un solo turista di lunga permanenza. La tendenza è sempre più quella di vacanze mordi e fuggi, vista anche la disponibilità economica. Per capire come adattare l'offerta ricettiva a flussi turistici ormai cambiati rispetto al passato, è stata istituita una cabina di regia con l'Università Bocconi, chiamata Lignano 2030. Tra le principali indicazioni emerse dal tavolo, dove sono presenti i rappresentanti di categoria, eccessiva dipendenza dalla concentrazione stagionale, necessità di farsi conoscere di più perché chi arriva poi ritorna, proporre fuori stagione tour enogastronomici e culturali in tutta la regione, usando Lignano come base d'appoggio, puntare su sport, vacanze attive, attività in barca, concerti ed eventi fuori stagione. Per questo è necessario in primis stilare un calendario unico degli eventi, delineare un programma unitario di promozione e un solo portale internet onnicomprensivo di tutta l'offerta turistica. Quest'anno festeggiamo i 120 anni dall'inizio della balneazione, commenta il sindaco Laura Giorgi. Abbiamo vissuto in una comfort zone. Il turista anni fa veniva da solo, ora non è più così e dobbiamo rivoluzionare il nostro modo di farci conoscere. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo, cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 24 gradi, mare calmo con temperatura di 23 gradi e 5 decimi, Udine e Gorizia 24 gradi, Pordenone 23 gradi e mezzo, Tolmeggio 19 gradi, Tarvisio 18, Forni di Sopra 17 gradi e 5 decimi, Piancavallo 16, Montezoncolan 14 gradi e 5 decimi e sull'Ussari 12 gradi, tornando sulla costa, Grado Lignano 24 gradi, con temperatura del mare di 22 gradi e mezzo. Le previsioni per le prossime ore: su pianura e costa cielo in genere sereno, in montagna sereno, poco nuvoloso. Giornata calda per il periodo, zero termico a ben 4.200 metri. Ettore Rosato, deputato triestino, braccio destro di Matteo Renzi fin dai tempi del PD, lascia Italia Viva. Intervistato da Repubblica, spiega il suo addio. Vado via per motivi politici, non personali. Lo sa bene anche Matteo, che ho incontrato la settimana scorsa e poi di nuovo questa. Ci siamo parlati, ma la distanza in questi mesi si era sempre più ampliata. Quando non ci si capisce più, è inutile proseguire. È una mia decisione, dice, smentendo di essere stato allontanato dallo stesso ex premier. Al Festival della Conoscenza Dialoghi a Palmanova si è tenuta la cerimonia di consegna del premio alla carriera alla giornalista Rai Lucia Goracci. L'abbiamo intervistata parlando anche del tema delle migrazioni. Prendo questo premio, per il quale ringrazio Palmanova, come una sollecitazione, un pungolo. In un momento in cui sembra che le notizie ci raggiungano dai quattro angoli dei continenti con una facilità e un'unità spazio-temporale, è ancora più importante, a mio avviso, la nostra testimonianza, che ci rende centrali perché ci rende in grado di non dare soltanto l'allineamento dei fatti, ma anche una spiegazione del contesto. Le informazioni, le immagini sono benvenute, arricchiscono il nostro sguardo, ma non sono l'informazione. L'informazione siamo noi, con il nostro tentativo onesto, terzo rispetto alle parti in conflitto e sempre fallibile, quindi sempre suscettibile di correzione, di raccontare il mondo. Al centro dell'incontro con Goracci, uno dei temi di cui la giornalista si è occupata più a fondo, quello delle migrazioni. Io vedo le guerre, quindi io vedo i contesti da dove fuggono, e vi assicuro che la scelta di lasciare non è mai una scelta a cuor leggero. Serve evidentemente una risposta corale, europea, non emergenziale, perché a mio avviso questa non è un'emergenza, ma è la realtà di ieri, di oggi e di domani, la realtà con cui soprattutto il Sud Europa, e l'Italia ne fa parte, dovrà misurarsi. È una sfida importante. Siamo allo sport. Alle 15 allo Stadio Friuli scenderanno in campo per il campionato di calcio di Serie A l'Udinese e il Genoa. Bianconeri alla ricerca della prima vittoria per uscire dal tunnel che li vede in fondo alla classifica, con la panchina del mister in bilico. Genoa invece per certificare il buono stato di salute della squadra. Il basket, esordio con sconfitta ieri per la Gesteco, che in serata ha perso in casa contro Verona per 66-72. L'entusiasmo del Palagesteco questa volta non basta. Cividale comincia la stagione con una sconfitta casalinga contro una Verona sicuramente più forte, ma non irresistibile. Troppo farfalloni i ducali, con errori su rimesse e in difesa che una squadra che parte con l'obiettivo di salvarsi non può permettersi. Peccato, perché i ragazzi di Pillestrini per tre quarti abbondanti avevano tenuto botta, anche se a strappi, quelli del solito Redivo, ma con buone iniziative anche dal tiratore Mastellari, in una giornata dove invece Verona non segna mai da tre e quindi non riesce mai a prendere il largo. Tutti gli altri nuovi acquisti però danno poco: Bertis in carta dopo un buon inizio, Marangone, Bartoli e Isotta sembrano acerbi, così ogni volta che Redivo rifiata la squadra di Ramagli, ottimo, l'ex Apo Esposito, si mette a distanza di sicurezza. Stefanelli, Gaic e Devo la portano a più 12 a 7 minuti dalla fine. La Gesteco, spinta dalla marea gialla, ci riprova e ancora una volta si riavvicina a meno 3, ma le energie per provare a vincerla non ci sono più. Finisce 66-72 con la squadra di Pillastrini che paga l'assenza di fisicità rimbalzo, 13 in meno catturati rispetto agli scaligeri. A livello individuale Beneredivo 25 punti. Oggi inizia il campionato dell'Apu, alle 18 bianconeri in campo a Nardò. Trieste invece recupera il match con Orzinuovi mercoledì al Pala Trieste. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Stasera a Gorizia il concerto dei 12 violoncellisti del Berliner Philharmoniker, una delle più importanti orchestre sinfoniche del mondo. Questo gruppo di strumentisti, ormai dal 1972, si esibisce anche in autonomia ed ha suonato nei maggiori teatri di tutto il mondo, spesso anche nella veste di ambasciatore musicale della città di Berlino in occasioni ufficiali. Stasera propongono un programma di brevi brani che vanno dal Rinascimento alla musica contemporanea e popolare, passando per il jazz. L'evento, uno dei più importanti nel percorso di avvicinamento alla capitale europea della cultura, comincia alle 20:30. Oggi grande festa a Draga Sant'Elia a Trieste, all'insegna della sostenibilità e della tutela ambientale, esposizioni, animazioni, escursioni guidate. Era questa la nostra ultima notizia. Ha collaborato in redazione Samantha Gon, per la parte tecnica Andrea Fontanotto e Federico Comar, da Livia Liberatore Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'auguro di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.